Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Un cittadino di Olimpia che in un'indimenticabile serata tra sport e show TV divenne campione e personaggio. Stiamo parlando ovviamente di Alberto Tomba, il fenomenale numero uno dello sci azzurro e mondiale, che ci è tornato in mente in questi giorni di vigilia del Festival di Sanremo. Sì, perché Tomba divenne la bomba proprio in quel febbraio dell'88 in cui i suoi trionfi olimpici ai Giochi di Calgary irruppero sul palco di Sanremo, che celebrava il suo festival. Riviviamo allora oggi quei giorni con un altro grande mito del nostro sci, Gustav Töni, classe 1951, un oro e due argenti olimpici, 5 ori mondiali, 4 coppe del mondo vinte, che in quei giorni era proprio a fianco di Tomba come co-allenatore in quella straordinaria trasferta canadese. Signor Töni, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buongiorno a tutti. Signor Töni, ritorniamo con la memoria a quell'incredibile Olimpiadi di Calgary dell'88 che cambiò la storia dello sport e dello sci italiano. Davvero in quella stagione c'erano già stati segnali che Alberto Tomba avrebbe potuto fare qualcosa di importante a quei giochi, vero? Ma certamente, che è partito nella Coppa del Mondo, nelle gare di Coppa del Mondo, fortissimo, e insomma, ha vinto praticamente quasi tutte le gare che c'erano fino ad arrivare alle Olimpiadi, e era talmente forte che non ce n'era per nessuno. Chi Alberto era? Era un Alberto che sentiva la pressione oppure, diciamo, col suo solito spirito guascone era pronto a giocarsela fino in fondo? Certo, c'era un grandissimo interesse dietro, insomma, era molto perseguitato anche da giornalisti e televisioni, e tutti lo erano vicino, tutti volevano intervistare, così, cioè era, non era neanche facile, sicuramente non facile per lui, ma anche per chi ci lavorava insieme. Però insomma, lui ha sempre dimostrato che più tensione gli era addosso, meglio andava. Immagino che la sua esperienza ebbe un peso decisivo, no? Diciamo la base viene già messo quasi l'anno prima, quando, perché anche lì insomma, ha messo già in luce che insomma stava andando molto bene, anche ai mondiali di Tramontana, dove è arrivato terzo in slalom. Si aspettava già qualcosa da lui. Poi diciamo, il lavoro che ha fatto, insomma, sì, lì lavorava ancora con tutta la squadra, direi che insomma, era molto serio, ha fatto anche un bel lavoro, e comunque alla fine era insomma, il più forte in quel periodo, e quello che meritava di più di vincere le Olimpiadi. Con quelle vittorie interruppe anche il Festival di Sanremo, fu un momento storico sia per lo sport che per la nostra televisione, perché Tomba la bomba entrò in diretta da casa Calgary di fronte a una platea di 20 milioni di persone. Quello sicuramente era una grandissima cosa, certo un po' era anche che le gare dall'America, la trasmissione, lì mi ha fatto un orario molto, molto buono per la televisione, e poterlo farlo vedere interrompendo un Sanremo per il nostro sport era una cosa grandiosa. E allora, signor Töni, torniamo indietro con la nostra macchina del tempo proprio a quel febbraio 1988 a Calgary, in Canada. È il 25 febbraio del 1988. Da pochi giorni Mikhail Gorbaciov, il presidente dell'Unione Sovietica, ha annunciato il ritiro di Mosca dall'Afghanistan. L'ennesimo segnale della svolta che di lì a un anno e mezzo porterà allo sbriciolamento del muro di Berlino. Ma mentre oltre cortina soffia il vento della rivoluzione, due grandi riti, anche televisivi dell'Occidente, si celebrano e anzi si fondono: i Giochi Olimpici e il Festival di Sanremo. Merito di un giovanotto bolognese che scia ai piedi salirà dall'Appennino fino al tetto del mondo. È il 22enne Alberto Tomba, bolognese, gambe d'acciaio e spirito guascone. Arriva ai Giochi Olimpici Invernali di Calgary con il soprannome che lo accompagnerà per tutta la carriera: la bomba, per la sua potenza esplosiva e le vittorie in fila che inanella in slalom gigante e speciale. E sul palcoscenico olimpico la bomba non fallisce. Quel 25 febbraio dell'88 Tomba conquista l'oro nel gigante e impone al Festival Sanremese di dare spazio alla diretta della sua gara. Scena che si ripete di lì a due giorni per lo slalom speciale. Tutto ripete le ultime porte, da qui in poi, ecco. Qua ha frenato un po' Hurdle, però sta andando Mamma mia, grande batticuore, qua ha fiato bene, ce l'ha fatta. Ce l'ha, temo che ce l'ha fatta. 48 e dietro! Senti, ha vinto ancora Alberto, ha vinto ancora, lo vedete esultare. Due medaglie d'oro, entra nella leggenda. Alberto Tomba entra nella leggenda dello sci di tutti i tempi. Signori, soltanto... Complimenti a Tomba, è un tripudio generale, ha fatto una incredibile rimonta. Adesso stiamo vedendo che cos'è il teatro in questo momento. Il teatro è impazzito. Grazie. Al tripudio del teatro Ariston si somma la gioia di una platea televisiva di oltre 20 milioni di spettatori. Comprensibile l'emozione dei due conduttori, Gabriella Carlucci e Miguel Bosè, come spiega Giorgio Simonelli, esperto e storico di mass media e TV. Certo, per i due, che poi non erano, come dire, presentatori di professione, di grande esperienza, ecco, non erano né Mai Buongiorno né Pippo Baudo, erano un po' degli esordienti in quel ruolo, forse rappresentò un momento difficile da gestire. Però io ho ricordo invece di una situazione abbastanza armoniosa in questa eccitazione. Se posso raccontare un aneddoto opposto, accadde qualche anno dopo, quando durante sempre il Festival di Sanremo si sospese una serata, si fece tacere una serata, perché c'era una partita Portogallo-Italia di qualificazione per i mondiali americani. Dopo la vittoria dell'Italia, Galeazzi si avvicinò a Gigi Riva, che allora era l'accompagnatore della sala, e chiese a Gigi Riva di cantare qualcosa. E Gigi Riva lo mandò a quel paese, per dire che non sempre si possono conciliare sport e musica. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora. Perdere l'amore di Massimo Ranieri vince il festival, ma il vero trionfatore è Alberto Tomba, che con il suo talento, le sue bizzarrie e il suo gusto per lo show scongela il mondo dello sci, facendone, insieme ai trionfi dell'altra stella azzurra Deborah Compagnoni, un vero fenomeno di massa. Sì, da quel festival di Sanremo che si sono collegati col Canada, anche ecco da lì, 20-25 milioni, l'audience... che tutti mi dicono, ma ti rendi conto che hai fermato? No, ho fermato, sono collegati loro, io non c'entro niente. Per me anche, anzi, era meglio che non venivo a sapere che c'erano, era in diretta sulla Rai. Niente, ho portato tanto odio e tanti tifosi e scommesse nei bar, già portavo via del calcio, cioè le pagine, le prime la domenica, sai, tutti. Invece c'era qualcuno anche di giocatori che andava con la TV negli spogliatoi, se voleva vedere proprio all'orario l'una e mezza, alle due, prima della partita. Questo mi ha commosso, è bello, bello. E oggi un altro Tomba all'orizzonte non si vede davvero. Alberto, come d'abitudine, ci scherza su. Questo oltre Tomba manca. Dopo Tomba il silenzio, come dire. Alberto piaceva anche perché era di fuori delle vittorie, così Emiliano mi piaceva, così far contenti anche i tifosi, tanti poi hanno montato vicende a loro piacere per vendere di più. Avete conosciuto Tomba in televisione, adesso mi presento, come dico sempre, come Alberto, uno tranquillo come tutti i ragazzi di oggi. E qual è stata invece l'eredità di quella straordinaria e vincente irruzione TV sul palco sanremese? Lo sci è quello che viene considerato, insomma, uno sport minore, no? In quel momento però era uno sport minore ma popolarissimo. Più di tutti Tomba, anche per la sua caratteristica di personaggio, è riuscito a rendere lo sci un fenomeno assolutamente popolare. Su una rete generalista, pensi oggi, no? Su una rete generalista che in prima serata interrompe Sanremo per mandare in onda uno slalom. Era un momento di massimo traino e di popolarità straordinaria dello sci. Sicuramente ci pensiamo con un po' di nostalgia, no? Perché non abbiamo più questa valanga azzurra, non abbiamo più questo personaggio come Tomba e non abbiamo forse neanche più quell'ingenuità di fronte a questa novità televisiva dell'inserimento, dell'intrusione dello sport dentro ad uno spettacolo di natura totalmente diversa. Oggi è difficile produrre in televisione le stesse emozioni. Gustav Töni, abbiamo rivissuto quella prima straordinaria Olimpiade di Alberto Tomba. Una curiosità, dal punto di vista tecnico, c'era qualcosa in comune tra lei e la Bomba? Basta, sì, certo che lui, anche lui era molto bravo, agli appuntamenti importanti riusciva sempre a esprimersi al meglio, e quello forse anche anch'io in certe occasioni era proprio un po' così, però poi sono due periodi diversi e sono due mondi quasi diversi. C'è un'immagine, un ricordo particolare che le torna in mente ripensando proprio a quell'avventura di Calgary? L'arrivo, quando tutti lì eravamo attorno, e insomma c'è una grande gioia di tutto lo staff e grande entusiasmo. Signor Teni, la ringrazio e grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie, tanti auguri. Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. È l'11 febbraio del 1990 quando, a Tokyo, lo sconosciuto James Buster Douglas diventa campione del mondo dei pesi massimi, mandando al tappeto alla decima ripresa l'imbattuto e ritenuto imbattibile Mike Tyson. A 25 anni di distanza riviviamo oggi a Olimpia quel match straordinario e incredibile. Ad accompagnarci un campione che ha scritto la storia del nostro pugilato, unico insieme a Primo Carnera ad essere stato campione mondiale dei pesi massimi. Francesco Damiani, ben trovato e grazie per essere oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. ciao, buonasera, ciao, buongiorno a tutti, buonasera. Allora Francesco, primo segreto da rivelare. È vero che quell'11 febbraio del 1990 a Tokyo, a posto di Douglas, avresti potuto esserci tu a sfidare Mike Tyson? Sì, guarda, questa è una cosa che pochi sanno. Il mio manager me lo disse che fu contattato allora quando Tyson doveva fare a Tokyo, dovevano organizzare un incontro di Tyson e fu fatto anche il mio nome, però mi disse così, diciamo velocemente, che rifiutò l'offerta perché erano pochi soldi che offrivano e Tyson era sempre Tyson. Adesso, quella fu una cosa che mi disse il grande Umberto Branchini, mio manager. Sai, allora Tyson era lo spauracchio di tutti, comunque lo sapevamo chi era, però quella volta magari se andava in porto quell'incontro può darsi che al posto di Dyson ci fossi stato io, ma può darsi, comunque era sempre un incontro da affrontare, insomma, perché Dyson sapevamo chi era. Quasi nessuno conosceva invece Douglas, vittima designata e poi vincitore a sorpresa. Che pugile era, Francesco? Un buon peso massimo con una buona tecnica pugilistica, soprattutto aveva il pugno pesante, questo nella categoria dei pesi massimi, sai, a volte non basta essere solo bravi tecnicamente, il peso massimo comunque il pugno quando ti arriva, anche se è uno scarso che non ha vinto nulla, se ti chiappa bene ti mette per terra e non ti alzi più, quindi i pesi massimi sono sempre delle categorie che ci sono le dinamite nei pugni. Sai, andare a trovare una spiegazione perché andò così e si andò a finire in quella maniera, io la vidi dal punto di vista che un pugile come Tyson, che veniva da un anno prima, che aveva combattuto contro il canadese, aveva vinto la corona dei WBA, poi aveva combattuto con Michael Spence, poi con Pinko Thomas, poi aveva guadagnato 100 milioni di dollari in un anno, ci poteva anche capire una certa flessione, capito? Però nessuno si immaginava che andasse così, ecco, perché comunque Tyson sapevamo che pugile era. Un match leggendario, quindi, Francesco, di cui proviamo oggi a svelare misteri e segreti. His record 29 wins, 4 defeats, 1 loss, 1 draw, with 19 wins by way of knockout. He's ranked number 3 by the WBC, number 4 contender in the WBA. Please welcome the challenger, James Buster Douglas. pur round, a volte molto, molto meno, più di rado poco di più. Tanto duravano di solito sul ring gli avversari di Mike Tyson, prima che Iron Mike li spedisse inesorabilmente al tappeto. Era questo l'epilogo che tutti ipotizzavano anche per James Buster Douglas, trentenne di Columbus, che l'11 febbraio saliva sul ring di Tokyo per provare a strappare proprio a Tyson la corona dei pesi massimi. Introducing the undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, the one and only Iron Mike Tyson! Pronostico chiuso, ma la marcia d'avvicinamento del campione in carica al match era stata segnata da qualche imprevisto di troppo, come ci ricorda Rocky Giuliano, firma storica del giornalismo sportivo italiano e di quello pugilistico in particolare. Tyson e il suo gruppo erano arrivati circa un mese prima a Tokyo e si erano allenati in una palestra, Korakuen Gym, e in un allenamento Tyson al tappeto messo giù da un destro di Greg Page, che tra l'altro era un ottimo pugile, che tra le altre cose divenne anche poi campione del mondo. La cosa venne tenuta sotto silenzio dicendo che si trattava di una scivolata, in realtà era già qualche cosa che lasciava prevedere il dramma. Inoltre Don King, nuovo manager di Tyson, aveva da poco licenziato Kevin Rooney, storico tecnico del pugile. All'angolo di Tyson, durante il match con Douglas, tanta buona volontà, ma anche ben poca preparazione. Alla settima ripresa Tyson, che aveva l'occhio sinistro quasi chiuso, e al suo angolo non erano alla borsa del ghiaccio, e usarono addirittura un guanto di plastica con dell'acqua per diminuire il gonfiore, cioè pressapochismo assoluto, cosa incredibile all'angolo di un campione del mondo. Il match prende subito una piega inattesa. Douglas non solo resiste ma contrattacca e Tyson non riesce a scatenare tutta la sua potenza, appare lento, poco reattivo. Ma all'ottavo round un bagliore del Tyson che tutti conoscono, un montante destro potente e preciso che schianta Douglas al tappeto. Il match sembra chiuso, ma a quel punto sul ring entra in scena un protagonista inatteso, come spiega ancora Rocky Giuliano. E a quel punto il protagonista divenne l'arbitro, il messicano Meiran, il quale cominciò a contare inizialmente già dopo 5-6 secondi e contò molto lentamente, fin tanto che al momento dell'8 suonò anche il gong del termine della ripresa e Douglas, che si era rialzato sia pure barcollante, riuscì ad andare al suo angolo e ripresentarsi poi alla nona ripresa. Salvato dall'arbitro e dal gong, quindi Douglas riprende il comando del match. Tyson non ritrova più quel bagliore. Alla decima ripresa il Carneade si scopre campione. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. Iron Mike è KO, James Buster Douglas è il nuovo campione del mondo. Buster Douglas è il nuovo heavyweight champion of the world. Gloria di una notte quella di Douglas, che perse subito la corona contro Holyfield e che quasi venne travolto dall'eco di quella vittoria. Tanto che sembra essere uscito solo ora da un tunnel fatto di obesità, lutti e depressione. Satisfaction. You know, it's been a childhood dream of mine of one day being a heavyweight champion. Cosa provai per quella vittoria? Una grande soddisfazione, ricorda oggi Douglas. Avevo sempre sognato di diventare campione del mondo e ora lo ero, era il mio momento. Me ne resi conto poco dopo, quando già ero sull'aereo per gli Stati Uniti e quando arrivai a Chicago con tutti quei giornalisti che aspettavano solo me. Ero rimasto sorpreso, stupito, mi chiedevo che cosa è accaduto, ricorda Tyson. La verità è che non avevo preparato bene quel match. Mentre lui combatté bene, non sbagliò niente, fece davvero un gran match quella notte. La storia di Iron Mike, dopo quell'incredibile notte di Tokyo, avrebbe visto poi altri capitoli imprevedibili e drammatici. Ancora Rocky Giuliano. Tyson, nonostante tutto, poi recuperò, perché dopo aver pagato il famoso debito con la giustizia, in quanto era stato accusato di stupro, se vi ricordate, e restò in prigione per diversi anni, quasi 3 anni, riprese a combattere immediatamente nel 95 appena uscito dal carcere, e poi riconquistò il 16 marzo del 96 a Las Vegas il titolo, ribattendo l'inglese Frank Bruno, che era una statua di bronzo veramente, però aveva la mascella fragile, e anche questa volta andò KO contro Tyson. Senza dimenticare il match del giugno 1997, in cui Tyson con un morso staccò un pezzo di orecchio, se avete capito bene, un pezzo di orecchio proprio a Evander Holyfield. Ma questa è decisamente un'altra storia. Francesco Damiani, abbiamo rivissuto insieme quella che molti considerano la più grande sorpresa nella storia del pugilato. Ti chiedo, a ripensarci oggi, sinceramente, dopo 25 anni, hai qualche rimpianto per non essere stato tu quella sera e contro quel Tyson sul ring al posto di Douglas? Ma guarda, io non è proprio questo che rimpiango. Rimpiango di non averlo incontrato. Che sia andato, che andava a finire, che lui vinceva, che io perdevo, oppure che io avessi vinto, oppure quella serata lì. Sai cos'era l'importante? L'importante era farlo, perché se ne è parlato sempre tanto, ma non si è mai raggiunto un accordo. Sicuramente i manager e questi hanno avuto una parte importante. Era giusto, Umberto diceva sempre, il mio manager, guarda, per carità, io sarei disposto anche domani andare a incontrare Tyson, però basta che ci mettano sulla bilancia una fetta consistente che possa dire, va bene, tentiamo, se va non va. A me forse l'unica cosa che mi rimane un po' amaro in bocca è di non aver fatto questo titolo mondiale, anche dopo, quando dovevo incontrare Hollis e poi mi sono fatto male, non sono riuscito ad arrivare ad una di quelle sfide veramente che sarebbero rimaste nella storia. Francesco Damiani, grazie per essere stato oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, ciao e arrivederci a tutti, ciao. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast sul nostro sito web radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. Olimpia, come sempre, torna domenica prossima alle 16:30. Ciao a tutti.